Senza Frontiere 21 in onda su Radio Wombat tutti i lunedì alle 14:30, in replica il mercoledì alle 17:30 e il giovedì sempre alle 14:30. Senza Frontiere 21 che diventa per la seconda volta Sense Frontieres per la seconda parte dell'intervista al collettivo Entre Barris. L'inserto musicale questa volta è un pezzo rivisto e rivisitato da Diluvi, è un pezzo storico popolare della zona di Valencia e che si intitola Vacomba. Buon ascolto. Abbiamo detto, no, che Entre Barris è una piattaforma di collettivi. Tu vieni da l'Espai Veïnal del Cabañal. Sì. Ci spieghi un po' il Cabañal e come siete nati, come nacque questo Espai Veïnal, questo collettivo? Ok, il padrino nasce quando muore, no? O finisce, o si vince con del governo anteriore Anteriore. del comune di Valencia. Una distruzione, no, Sì, volevano del distruggere un quartiere. Sì, quartiere per far passare una strada. esatto, questo quartiere è il Cabañal, no? Allora, questa strada era un'ampliazione di un'avvenida, Sì, di una strada sì, grande, di una di un strada, boulevard. di un boulevard, e perché volevano che arrivara sul Arrivasse sul mare, mare no? direttamente. Allora, dopo di finire questo, no, di vincere a questo progetto urbanistico, si fa come un dubbio, no, che adesso Che che facciamo? Dato che abbiamo vinto questa battaglia, adesso che sì, facciamo? perché è vero che il quartiere è stato distrutto, no? Un po', no? Non era il quartiere di 10 o 15 anni fa quando questo ha cominciato. Sì, hanno molti problemi, no? Di abitare, di case, di esclusione sociale. Molte case sono disabitate perché l'antico governo l'ha comprato e anche l'ha distrutto. Allora, il quartiere si trova in una situazione particolare, no? D'una parte è come che si può cominciare qualcosa nuova, ma d'altra parte è come un luogo dove questi fondi di investimento immobiliari, eccetera, hanno Interessi, sì, perché sul molti mare. interessi. Esatto. E sul mare hanno tante case che si possano riformare, no? Riabilitare. Riabilitare. Che claro, che è come, non, come che è facile, no? Perché molte persone non possono pagare per riabilitare queste case, ma i fondi di Investimento sì. investimento, immobiliari, eccetera, sì che può. Come il turismo sta cambiando il Cabañal da quando tu sei arrivata qua a Sì, Valencia? come. Ha cambiato perché 5, 6, 7 anni non si vedevano turisti, io credo, no? Può essere nel mare, ma non tanto, no? Al quartiere è un quartiere ancora, no? Ma era un quartiere molto popolare, di diversità culturale, con i conflitti che questo Comporta. comporta, ma diverso, no? E adesso sì che si vedono non solamente turisti, anche studenti con un capitale, o studenti Erasmus, o così, no? Come si vedono nel PAF o i bar. Tutto questo sta cambiando, no? Come stanno fermando antichi commerci. Sì, stanno chiudendo Sì, i negozi vecchi, le piccole botteghe chiudono e si aprono questi bar. esatto. Sempre come moderni, che in sì, Radical questo chic si dice in sì, italiano. Bar ok, radical chic. radical sì. Questo se uno o due, può Abbiamo un essere non è problema. un problema, ma si vede che in alcune strade si stanno concentrando questo. e stanno facendo la strada pedonale. Pedonale. Allora, queste vari fanno le tavole, le terrazze, le tavole, esatto, fuori. Allora, sì, a 5 anni fa tu potete andare al Cabañal in cena, no? Sì, fare una cena. Sì, fare una cena, ma adesso se non riservi non puoi andare. Se non prenoti. Sì, no? Se non prenoti non c'è posto. No, esatto, non c'è posto. Sabato, venerdì non c'è posto perché sta molto, cioè, non so, come la Boca, no? Certo. Sì, non so. Cioè, voi, vabbè, Spai Perinà soprattutto, però anche in Trebarsi non lavora solo contro la densificazione, ma anche contro la gentrificazione, sì, no? Che al Cabañal si vede, ci spieghi un po'? Che questo è un fenomeno, no? Che si vede a altre città, no? E che consiste un po' in passare da un quartiere più popolare o non con molti soldi, no? È un po' povero. O popolare, no? Non è preciso che sia povero, ma questo quartiere popolare per parte dell'amministrazione si lascia o si permettono come attività che lo deprimono, non so che... Lo reprimono. Sì, lo reprimono. Lo deprimono. Deprimono. Deprimiscono. Sì, deprimiscono. Anch'io ho problemi con l'italiano. E allora questo quartiere sta come abbandonato e si trasforma, no? Perché le persone che vivono lì è difficile vivere perché appaiono problemi sociali, di convivenza, fa schifo, no? La strada non si può andare, comincia a essere, no? A essere un po' che vivere lì non è l'ottimo, no? È un po' difficile. Allora le persone vendono le sue case o le lasciano, non la fanno belle, no? Come abbiamo detto, aggiustano, riformano. Si riformano. L'abbandono. Sì, l'abbandono. Allora, a Ciutat Vella, no? Al centro della città, è successo lo stesso. Si mette la droga, normalmente. Cioè che la polizia chiude gli occhi, sì, sulla, esatto, questione della droga, non diventa niente, un quartiere complicato, non, esatto, si può entrare. Esatto. Allora le persone vanno via, no? E questo quartiere, in 3, 4 anni, 5, non so, dipende dal caso, un anno, si fa vedere che è un buon luogo per investire, no? Allora, immobiliari, negozi, tutto questo che abbiamo detto, cominciano a investire lì, no? Allora si trasforma in poco tempo. Prezzi si abbassano, una persona ne va. Esatto. E viene persone nuove con un potere acquisitivo, no? Sì, un potere acquisto, no? E maggiore. Allora si trasforma un po' la vita perché questi commerci che avevano prima anche hanno chiuso, no? Normalmente i commerci di pane, di panifici, no? Tutto questo è... Le mercerie, chiude. I negozi piccoli, sì, tutta la vita. Tutto questo chiude perché non è rentabile. Se la gente non vive e si va, la gente che vive non ha i soldi e chiude, no? Allora, questi negozi nuovi sono questo bar, questo pub, questo terrazze per bere, no? Mangiare, ma non per vivere. Non so come dicevo, per sì, andare e ritornare andare, a casa, sì, no? Certo. O si vive lì e devi sapere che sicuramente avrai problemi con il ruido, no? Cioè col rumore della col gente. Col rumore, certo, della gente, della festa, qualcosa, no? Allora, questo ha successo, no? Qui in questi due quartieri già è una realtà, no? Ciutat Vella o o Russafa. Io per esempio su Spy Veinal, a me sì. interessa molto la posizione che avete sulle occupazioni, no? C'è molta gente sì. che sull'occupazione, sì. ma occupazione chi, quanto, dove, perché, se un centro sociale, sì. ma non lo so. Su questo che cosa mi puoi dire? A Spy Veinal e al Cabañal, tanto quando il quartiere è stato abbandonato, ha avuto molta occupazione, no? Per persone che non avevano soldi, ma anche per persone che volevano difendere o proteggere questo quartiere, no? Perché le case, se no, stanno cadendo. Allora, è stato un movimento anche di difesa, no? difesa del quartiere. Allora, già di entrata, no? si fa vedere questo, no? Di questo collettivo, ma è vero che adesso come adesso già questo quartiere già non sta deprimito, no? Non è abbandonato. Non è abbandonato. Allora, tutte le persone che vivono adesso in queste case devono abbandonarlo, no? Poco a poco si sta facendo dal governo o dell'immobiliario o dei proprietari il movimento per la pressione. Sì, perché adesso interessa, no? Quelli che occupano se ne vada. Esatto. E per i soldi, perché sanno che vanno che diamo guanti, non so che sì, guanti no? Molti soldi. Molti soldi. Allora, non so che stava dicendo, vorrei. Dell'occupazione. Ah, sì, e adesso abbiamo visto, no, che sono altre famiglie, altre persone, altri hogari che devono uscire dalle sue case perché stanno pagando un affitto, ma adesso non possono pagarlo e devono andare via. No? E che facciamo con queste famiglie, no? Con queste persone? Vanno via o vediamo che case sono ancora a questo quartiere o alla città per poter vivere, no? Perché o queste case che sono di banchi, che sono del banco, che sono della sua proprietà e sono per investire, no? Non sono per una proprietà individuale, per poter vivere, e dobbiamo darla alla banca o meglio occuparla per questa famiglia che sennò andrà via, no? Allora, più o meno è questa la difesa che facciamo, certo. No? Che meglio che queste case siano per le persone, no? Ancora che siano occupate, che non per la banca o per immobiliari che fanno negozi. A tu t'emprenya molt que jo et tingui mania de comba. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria de comba. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla de comba. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat i jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va. Va com va. non tinc per mi. Si tu non tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensa que sols diré fins que més no pot. Sì, dopo in tre barri si è cominciato a lavorare. L'anno scorso, tipo a giugno, c'è stata questa nuova legge del turismo votata per la regione. Che ne pensate? Si è fatto abbastanza? Funziona? Non funziona? Entre barri ha detto che abbiamo detto, no? Che è un po' simple, no? che è un po' superficiale. Superficiale questa legge. Esatto. Perché non proibe o non accatta, non controlla, non regola davvero, no? Solamente dice si può fare solo la prima pianta. Cioè la nuova legge pianta. Dice che tu puoi, sì, affittare la casa per motivi turistici soltanto, sì, al primo piano. Claro, per esempio al Cabañal questo non avviene. È una scherzo. Perché tutte le case sono di una pianta, allora sono di un piano solo. Sì, sono di un piano solo, o quasi tutte. Sì, perché il Cabañal è un quartiere, sì, con molte case basse. Esatto. Allora qui che sta facendo niente o a Benimaclet, per esempio, anche, sì, è anche un po' questo, no? E allora è come facciamo questa misura, no? Questa legge, ma è come eso, superficiale, perché non tratta i problemi, no? Non parla di Airbnb, come controlli Airbnb. Certo. Devi fare leggi che servisca, no? Che serva, una legge che serva. No? Esatto, che faccia di tutti i problemi come eccezione, non so, dell'Airbnb, come reguliamo questo, che possiamo fare. È chiaro che le regole o le leggi di comune o di qui non sono le che sempre quelle che mandano. Certo, perché no, alla fine qua sì, lo Stato comunque comanda sulla, esatto, regione, comanda sul, esatto, paese, eccetera, eccetera. Ma si possono fare cose, no? Perché a Mallorca già si stanno facendo cose, sì, o a Barcellona, no? Ma proibire, controllare, non so, è un po' come forte sentire questo, no? Qui, perché come che le case qui alla Spagna non sono un bene comune, no? Non sono un diritto, certo, realmente, sono un negozio. Allora, dire qui o parlare qui di controllare o di, non so, mettere dei limiti. Sì, dei limiti in questo, o parlare dei prezzi, o è come stai parlando, no? Perché qui è un negozio e tu che devi dire di questo. Ma se fanno solo leggi che regolano pochissimo, non facciamo niente, no? Non fermiamo questo movimento di turistificazione. No, credo che questa legge non ha preoccupato alle immobiliari, non ha preoccupato ai proprietari. Cioè, non ha colpito nell'immobiliare. Esatto, non ha colpito niente. Allora, se non ha colpito niente, che non fa niente, no? Non so, si deve domandare questo il comune, no? Perché sì. Come stanno funzionando i fondi di investimento a Valencia? Come funzionano i fondi di investimento? Non sappiamo se sono moltissimi, no? Perché entre vari di 2 anni fa, no? Un anno e mezzo, allora non abbiamo tutta l'informazione di tutti i fondi, questo, ma se che abbiamo visto, no? Questo vertice. Sì, il gruppo vertice. Gruppo vertice. È molto famoso di Barcellona. Sì, ma abbiamo visto che non è un gruppo, un fondo di investimento come tutte, no? È come che c'è una persona adesso che ha il capitale 60%, allora non è un fondo di investimento veramente, no? È come un immobiliario, come un negozio grande, no? Certo. Non è che non sia pericoloso e anche si deve lottare, ma non è puramente un fondo di investimento. Ma questo, no? Non abbiamo visto altre come queste o similari che stanno investendo, ma sé che sappiamo che questo gruppo vertice ha cambiato, no, come il suo interesse di Barcellona, e ha detto che Valencia adesso è come il punto dove vuole investire, no? Allora è un po' preoccupante, perché se questo famoso gruppo chiama, no? E fa questa chiamata a tutti gli altri gruppi. Sì, è pericoloso, no? Perché possono venire molti altri gruppi, no? Ma adesso non abbiamo dati di specifici. Ci puoi dire i 5 punti, 5 pilastri di Entrebaris, le 5 rivendicazioni che sono sempre state chiare, che tutta la città è il motivo per cui questa piattaforma di collettivi sta funzionando? Se ci puoi elencare. Sì, adesso i 5 punti che abbiamo fatto l'anno scorso sono il primo, no, la regolazione restrittiva degli appartamenti turistici, che come detto che con la nuova legge non si ferma, no, questa dinamica di turistificazione. Allora, parlare di zone turistificati, sì, o zone saturate del turismo, sì. Esatto, parlare di questo, che a Russafa lo hanno domandato, no? Abbiamo chiesto al comune, e questo, no? Come parlare di leggi che siano più forti, no? Il secondo punto, come hai detto adesso, prima il parco d'abitazione pubblico, no? Come il parco del parco pubblico di case, no? Sì. Di case per le persone che non possono pagare un affitto, no? Che sono moltissime. Che è vero che adesso c'è la renta valenziana, sì, c'è un reddito base. Sì. Ma adesso è come che sta cominciando, no, le famiglie che l'hanno chiesto o l'hanno mandato non lo avevano ancora, no? Allora questi soldi basici non lo hai, allora non una famiglia che sta precaria o non lavora e non hai soldi, non può pagare una casa di 400 euro ni 500. Allora, questo parco pubblico, che passa, dove è, che si fa, no? Come si accede, perché adesso è come impossibile. Il punto 3 è come l'establimento. Stabilire il prezzo dell'affitto, no? Affitto, un calmante, sì. Gli affitti. Almeno per poter partire di qualcosa, no? Perché adesso è totalmente free, no? È libero. Qui in Madrid, in Barcellona, qualche città, no? E tu puoi pedire, Chiedere. chiedere a, come si dice, al che li giochi, All'affittuario. all'affittuario, il prezzo che tu vuoi, no, non c'è nessun limite, no? È libero, Quindi totalmente. chiedete Sì, uno no, no, stabilimento dei prezzi. esatto. E che sia reale, no? Perché 800 euro non sarebbe reale, no? Si deve vedere bene. Quarto punto è questo che dicevamo, no? Se stai Occupando. occupando o stai pagando un affitto e non lo puoi pagare perché non hai soldi o avete una proprietà che la stai pagando al banco e non la puoi pagare, che esista un diritto, no, delle persone che vivono lì di non andare via, no, di poter stare lì, perché non puoi andare a qualche altro luogo. E la ultima, no, la che abbiamo detto, no, Il quinto. quinto punto, è le cooperative. No, le Le case case cooperative. cooperative per vivere, no? Come altra forma che non sia solo qualcosa del comune, no? Se che si potete, no, ma Si che si possa. possa vivere d'altra manera, no? Che con queste cooperative che sono diverse, no? De quello è sistema che esiste adesso, no? O che manda adesso. Ma boh, questo è le tue punti. Va bene, ti ringraziamo Silvia, sei stata gentilissima e niente, buona lotta. Grazie mille.